e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Oggi Deborah sarai felice perché al pranzo ci ho pensato io. Cosa mi hai preparato di buono? Allora, sai che Andrea Ribaldone ci aveva preparato quella ricettina sui con i piselli freschi? Mm-hmm. Bene. Me lo ricordo. Adesso avevamo già decantato le virtù dei legumi, adesso arriva anche la conferma di un altro studio, i ricercatori di Toronto, che hanno analizzato studi su 1000 persone e hanno confermato che proteggono il cuore. E allora, come donna di cuore, che cosa potevo fare? Vado sulle pagine di Cuore Denari, vado a copiare la ricettina in video di Andrea Ribaldoni e voilà, oggi a pranzo crema di piselli con uovo barzotto. E siamo a posto. Allora, se tu mi pensi al pranzo, io questa volta devo pensare all'attività ai denari fisica. Allora, no, senti qua cosa è successo stamattina. Si è quotata Tecnogym in borsa, quotazione che è andata benissimo, poi racconterò anche quanto sta facendo il titolo in questo momento, ma la cosa divertente è che c'è stata, come sempre, la grande cerimonia di apertura appunto a Piazza Affari, qui vicino a noi a Palazzo Mezzanotte. Sai cosa ha fatto Neri Alessandri, l'amministratore delegato della società, ha fatto fare ginnastica a tutti i partecipanti stamattina, per cui torsioni del collo, squat, stiramenti della schiena. È toccato a tutti, a Diego Della Valle, ai manager di Mediobanca, anche al numero uno di Moncler, Remo Ruffini, si è dovuto togliere il piumino, per cui pensa stamattina che cosa divertente, cosa non si fa per avvicinare le persone alla borsa. Chi ha tempo non aspetti tempo, si potrebbe così riassumere il messaggio della settimana europea dello scompenso cardiaco che è partita ieri in Italia. Sono circa 1 milione di persone che si trovano a fare i conti con stanchezza, spossatezza, affaticamento. Sono sintomi che possono essere attribuiti al passare degli anni, ma che in realtà potrebbero invece essere il segnale che il cuore non riesce a pompare in modo soddisfacente il sangue nel resto dell'organismo. Ecco perché è fondamentale saper riconoscere per tempo questa patologia. E proprio per questo motivo alla campagna hanno aderito oltre 40 centri cardiologici che sono distribuiti lungo tutto lo stivale. Fino a domenica ci saranno iniziative di sensibilizzazione rivolte alla popolazione generale, ai pazienti e ai loro familiari. Allora, se volete saperne di più, il tuocuore.com e di Cuore Dintorni naturalmente parleremo anche noi nei prossimi giorni. E dall'Italia andiamo all'estero, in America, per parlare di un nuovo studio presentato al congresso di pediatria in corso in questi giorni a Baltimora, che ha evidenziato che i bambini che vivono in una casa abitata da fumatori, siano essi i loro genitori o no, devono ricorrere molto più frequentemente degli altri a visite e cure mediche. Un risultato che tra l'altro è in linea con i dati raccolti dal reparto di broncopneumologia dell'ospedale Bambino Gesù di Roma, che hanno dimostrato che un bambino su 5, tra quanti accedono agli ambulatori per problemi respiratori, presenta problemi proprio legati al fumo di sigaretta passivo. E di fumo passivo parleremo tra poco con il nostro esperto, quindi numero verde 800 24 00 24 per raccontarci se e come vivete accanto a un fumatore. Buone nuove dalla ricerca: c'è una nuova promettente cura contro alcune forme di cancro al colon, un tumore che ancora oggi è considerato uno dei big killer. Per saperne di più tra poco non perdetevi l'intervista al professor Salvatore Siena dall'ospedale Niguarde dell'Università Statale di Milano. Ma prima di dimenticarmi, Deborah, proprio un consiglio sulla memoria. Ti faccio sicuramente il passatino di piselli, ma ti spruzzo anche un po' di aroma di rosmarino. Sai perché? Faticosa. Dopo la ginnastica in borsa. Così ti ripigli. No, pensa che secondo un gruppo di ricercatori inglesi, ritrovarsi in una stanza dove è diffuso il profumo di rosmarino migliora la memoria del 15%. Ma naturalmente oltre al rosmarino ci sono tante altre e profumi che ci fanno stare bene. E allora, per saperne di più, sul nostro sito abbiamo raccolto l'intervista di un'esperta che ci racconta come utilizzare essenze e profumi per il nostro benessere. E adesso partiamo con la rassegna di denari. Inevitabilmente si riparte con il racconto della giornata in borsa. -1,40% per il FTSE MIB a Piazza Affari, quindi una nuova giornata negativa per Milano, come è stata ieri, mentre ieri per le altre piazze europee la giornata era andata diversamente. Oggi sono negative anche Parigi e Francoforte. Allora, intanto stanno pesando un po' le molte trimestrali in corso di diffusione che vengono lette un po' in chiaro scuro dagli investitori. A Piazza Affari pesano ancora i titoli bancari: Monte dei Paschi -5,32%, Banco Popolare -4%, 4, UbiBanca meno 3,24, Unicredit meno 3, insomma vanno male tutti i titoli del settore. Pesa ancora quello che è accaduto ieri alla Popolare di Vicenza. Il gruppo era pronto a sbarcare in borsa, ma Borsa Italiana ha detto no, perché il flottante non basta, per cui è un'operazione che non si può fare. Vi segnalo su questa notizia, sulla mancata quotazione in borsa della Pop Vicenza, il bell'articolo di questa mattina sul Sole 24 Ore, come sempre, del nostro Moria Longo, che fa un po' il punto della situazione per i piccoli azionisti di questa banca, piccoli azionisti naturalmente della fase precedente a questa preliminare della borsa. Tanti piccoli azionisti sparsi sul territorio, sono circa 120.000, che aspettavano anche questa quotazione, possibilmente per rivendere il titolo, anche se naturalmente rischiavano di perdere moltissimo del loro capitale inizialmente investito. In realtà, a quanto pare, questa mancata quotazione lede ulteriormente i diritti dei risparmiatori. Tutto questo per arrivare a dirvi che nell'ultima parte di Cuore Denari parleremo della guida che esce oggi con il Sole 24 Ore, il nuovo corso pratico di educazione finanziaria, come difendere i propri diritti, e c'è una lunghissima parte dedicata proprio al contenzioso con le banche. Noi ne parleremo a partire dalle 11.45 con il collega del Sole 24 Ore, Antonio Criscione. Oggi, dicevamo, debutta anche Tecnogym a Piazza Affari. In questo caso invece parliamo di un debutto proprio positivo, più 8,74% adesso per la società, che ha fatto anche fatica a fare prezzo. All'inizio ci sono state tantissime richieste di adesione a questa iniziativa. Il gruppo in questo momento vede appunto nel capitale 63 fondi internazionali. Per quello che riguarda invece un'altra notizia della nostra rassegna stampa di denari, appartiene al mondo fiscale, perché da ieri e fino al 7 luglio i contribuenti possono accettare, integrare o modificare il proprio 730 già compilato in tutto o in parte dal fisco e trasmetterlo all'agenzia direttamente, all'agenzia delle entrate direttamente dal proprio computer. Da quest'anno, lo sapete, ci sono meno campi da riempire grazie all'inclusione delle spese sanitarie, esclusi i farmaci da banco. Sono incluse anche le spese universitarie, i bonifici che avete fatto per ristrutturazioni e bonus energetico, la previdenza complementare, anche le spese funebri, se quelle sono state sostenute lo scorso anno. Dal 9 maggio e fino al 30 settembre sarà possibile trasmettere online anche il modello unico. Allora, perché vi racconto questa notizia? Perché questa notizia ci offre lo spunto per anticiparvi che nella seconda parte della trasmissione, dalle 11, parleremo dello SPID, il sistema per ottenere le credenziali informatiche per avere accesso a tutte le porte della pubblica amministrazione. Lo SPID serve anche per avere accesso alla nostra dichiarazione dei redditi precompilata. E chiudiamo la nostra rassegna stampa con una buona notizia dalla ricerca: un passo avanti, un salto di qualità nella cura di alcune forme di cancro del colon. Sono questi i risultati di Eracles, uno studio multicentrico coordinato dal gruppo di Niguard, che ha coinvolto l'Istituto Oncologico Veneto e la Seconda Università di Napoli, e finanziato dall'AIRC. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il professor Salvatore Siena, che è direttore del Dipartimento Oncologico all'ospedale Niguard e professore di oncologia all'Università Statale di Milano. Buongiorno, professore. Buongiorno. Professore, allora, voi avevate un obiettivo preciso, migliorare, andare avanti nella cura contro alcune forme di cancro al colon, e ci siete riusciti, avete fatto centro. Sì. Noi ci siamo proposti di trovare una terapia per il cancro del colon con metastasi, quindi per la malattia avanzata, che fosse una terapia ben tollerata ed efficace. Per fare questo, con i ricercatori di Candiolo, che lei non ha menzionato prima fra i ricercatori, ma è molto importante, perché in realtà il protocollo clinico, il programma clinico, la nuova terapia, prende le mosse dalla scoperta che un meccanismo di propulsione, di progressione del tumore è l'oncogene HER2 del tumore colorettale. Quindi, avendo sviluppato in modelli preclinici nuove terapie farmacologiche non chemioterapiche contro questo meccanismo di propulsione e progressione del tumore, abbiamo avuto modo a Niguarda, a Candiolo, a Napoli e a Padova di applicare questa nuova terapia, che consiste nell'applicazione di una combinazione di due farmaci. Abbiamo valutato 950 pazienti e ne abbiamo identificato una piccola frazione, circa 28 persone, quindi una trentina di persone, sì, che hanno avuto modo di avvantaggiarsi nettamente di questa terapia, pur essendo stati resistenti alle terapie precedenti. Quindi questo implica che una frazione di pazienti con carcinoma del grosso intestino metastatico possono essere trattati con una terapia nuova, non chemioterapica, ben tollerata, ambulatoriale, e questo è un passo avanti. Un passo avanti sicuramente molto importante, di cui torneremo a parlare, professor Sieni, insieme a lei, e inviteremo naturalmente anche un suo collega dell'Istituto di Candiolo di Torino. Grazie. Grazie e buon lavoro, un passo avanti della ricerca. Segniamo anche questo successo e questo è un'occasione in più per continuare ad investire nella ricerca e a crederci, perché la ricerca è di chi la fa, ma anche di chi è soprattutto importante chi la sostiene. Professor Siena, buongiorno. Arrivederla, il lavoro continua e grazie, buon lavoro anche a lei. Grazie, grazie. E noi andiamo a sentire è tempo. Che cosa succede sulle strade e sulle autostrade tra poco. Cuore e denari. Allora Deborah, torniamo a parlare di fumo. Sì. Su gentile richiesta dei nostri ascoltatori, certo. Perché la citisina, galenico per smettere di fumare, ti ricordi? Ne abbiamo parlato la scorsa settimana con la dottoressa Siracusano di Humanitas, sì. Nella puntata proprio dedicata all'aumento del prezzo del pacchetto delle sigarette, ha acceso la curiosità di molti di voi e quindi chiamateci. Risponderemo naturalmente a tutte le vostre domande, ma non solo. Oggi abbiamo deciso di raccogliere l'allarme lanciato dai pediatri riuniti a un importante congresso a Baltimora sui danni del fumo passivo, con la speranza di dare a chi fuma una ragione in più per smettere. L'invito è: se non vuoi smettere per te, smetti per le persone che ti stanno accanto e soprattutto per i tuoi bambini. Perché? Perché i figli dei genitori che fumano stanno peggio degli altri. Finiscono più spesso dal pediatra, al pronto soccorso. Questo è un po' in sintesi, no? Il messaggio di questo studio che americano che è andato a valutare con quale frequenza su scala nazionale negli anni 2011 e 2012 i bambini e gli adolescenti, sì, perché il range d'età comprendeva dai neonati ai ragazzini intorno ai 17 anni che erano figli di fumatori o meno, avevano fatto ricorso a visite ambulatoriali o a ricoveri in ospedale. Allora, se volete smettere, restate. Se vivete accanto a un fumatore, nell'attesa che decida di smettere, imparate a proteggervi. Ci aiuta il dottor Roberto Boffi, il nostro dottor antifumo, responsabile della pneumologia dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Buongiorno dottor Boffi, bentornato. Grazie, buongiorno Nicoletta, buongiorno Deborah, buongiorno a tutti. Allora dottore, prima di parlare di citisina, per chi vuole smettere diamo la precedenza a chi pur non fumando subisce gli effetti del fumo, di chi gli sta accanto. I danni del fumo passivo di seconda mano, no? Come viene anche definito in Inghilterra, sono ampiamente documentati e provati. Chi è esposto al fumo passivo è in pratica come se fumasse in media 2 sigarette al giorno, quanto basta a provocare gli stessi danni all'organismo che colpiscono i fumatori abitudinari, è corretto? Sì, secondo dati epidemiologici corrisponde un'esposizione continuativa, quotidiana a fumo passivo, quindi diciamo circa 8 ore al giorno, a 2-3 sigarette fumate, quindi non è poco. Se noi pensiamo che comunque quello che fa male, lo dico sempre, del fumo è l'uso, non l'abuso, in quanto anche poche sigarette è stato dimostrato che determinano un cosiddetto danno genotossico, che sembra una parolaccia, ma vuol dire una tossicità genica, quindi un male, diciamo, a livello genico, a livello della mucosa dei bronchi, che è chiaramente reversibile, che però è una prima molla, diciamo, pericolosa, che può stimolare l'infiammazione o addirittura anche processi peggiori. Per cui 2-3 sigarette al giorno o un'esposizione continuativa al fumo passivo, anche nelle persone normali, quindi non negli asmatici, non nei bambini, non nei malati di cuore, può determinare un problema di salute che è quanto possibile meglio evitare. Dottor Boffi, i pediatri in America, ma anche i ricercatori dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù, ma poi sono tante le ricerche che hanno sottolineato che la salute dei figli e dei fumatori è in pericolo, no? Hanno un maggior numero di ospedalizzazioni rispetto ai figli dei non fumatori. Non solo, però, i rischi li corrono anche prima di nascere. Numerose ricerche hanno dimostrato, ad esempio, che in caso di madri fumatrici il peso del bambino alla nascita è inferiore rispetto a quello dei figli di madri non fumatrici, solo per fare qualche esempio, no? I motivi per smettere, lo sappiamo, sono tanti, e sicuramente quello di tutelare la salute dei propri figli potrebbe, no, essere una leva importante. Nella sua esperienza funziona? Lei l'ha utilizzata per convincere qualcuno a fare il grande passo? Beh, è un argomento molto delicato naturalmente, perché si rischia di colpevolizzare le mammine o i neopapà che fumano, e questo può creare a volte un muro, no? Noi non cerchiamo di giudicare il fumatore, ma di accompagnarlo in questa non facile battaglia. A volte smettere di fumare viene paragonato un po' a una gara podistica, no? Quindi a volte le motivazioni possono venire fuori in qualunque momento, però è un po' una fatica smettere di fumare. Quella della gravidanza, insomma, della paternità è sicuramente una motivazione molto forte, però tre quarti delle mamme che fumano smettono, ma ahimè tre quarti di loro dopo il parto o al massimo dopo l'allattamento ricominciano, per cui molto di più ci sarebbe sicuramente da fare anche nell'ambito ginecologico e pediatrico in campo di prevenzione. Quello che noi diciamo comunque ai genitori dei fumatori che hanno bambini o adolescenti in casa è che dati statistici dimostrano che i loro figli hanno il 50% di probabilità in più di diventare anche loro poi fumatori, perché l'esempio vale più di tante prediche. Sì. Allora, dottor Boffi, con Deborah abbiamo un calendario dove ci segniamo tutte le giornate. Esatto, nel calendario condiviso. Delle giornate dedicate alla salute, la data di oggi è segnata in rosso perché il 3 maggio si celebra la giornata dell'asma. E la relazione tra il fumo e questa malattia cronica, che è caratterizzata, come sappiamo, da una maggiore o minore infiammazione dell'apparato respiratorio a livello dei bronchi e dei piccoli bronchi, è molto stretta. E parliamo in questo caso sia di fumo attivo che di fumo passivo. Dottor Boffi, che cosa è importante sapere? Beh, una cosa che purtroppo, ahimè, anche molti medici o anche pneumologi non sanno, cioè un quarto degli asmatici fuma ancora, quindi non percepisce comunque il fatto di avere una malattia cronica come l'asma bronchiale, come ha detto lei, prevalentemente di natura infiammatoria, come un motivo sufficiente per smettere di fumare. E questo è grave, perché è vero che il fumo non fa venire l'asma, ma l'aggrava, aumenta le riacutizzazioni, aumenta la percentuale il numero di accessi in ricovero, in pronto soccorso, ma questo non solo vale per il fumo attivo, ma anche per il fumo passivo, e questo non solo per i bambini, ma anche negli adulti asmatici. Quando noi abbiamo aperto qui il centro antifumo per più di 15 anni fa all'Istituto Nazionale dei Tumori, il 25% delle persone che sono venute il primo anno erano asmatici, soprattutto asmatiche, devo dire, perché è stato il primo centro antifumo che finalmente si è occupato anche di loro, e devo dire che le donne soprattutto in questo sono più coraggiose. Allora non c'era ancora la legge antifumo del professor Sirchia e molte di loro erano esposte al fumo passivo in ambiente lavorativo, e con delle lettere di diffida che abbiamo consegnato a loro, più di 100, abbiamo ottenuto, devo dire, dei buoni risultati di minore esposizione al fumo passivo prima che venisse già introdotta quella legge sacrosanta che ormai c'è fortunatamente da 11 anni. Dottor Boffi, adesso la legge Sirchia naturalmente ha cambiato molto la situazione e anche ha tutelato i non fumatori, ma tornando al fumo passivo, anche il fumatore poi torna a casa, no? Sì. Ed essendo consapevole di tutti i danni che può provocare anche, no, ai suoi familiari, cosa fa tendenzialmente, no? Esce a fumare in balcone, sì, in giardino. Ma sì, perché comunque la legge antifumo ti ha portato ormai, ecco, ha portato un po' il fumatore ormai a questa abitudine sana, diciamo, di uscire fuori. Allora noi quello che diciamo sempre ai fumatori, abbiamo anche pubblicato su una rivista importante, si chiama Tobacco Control, anni fa, un lavoro che più o meno la sintesi, la morale della favola era: hai fatto fumatore, hai fatto 30, fai 31. Cioè, non solo se vai fuori a fumare prima di rientrare, non solo nel bar, nel ristorante, nel tuo ufficio, ma anche nella tua macchina, nella tua casa, aspetta almeno 3 minuti, perché noi abbiamo scoperto una cosa che succede, che diciamo a insaputa, suo malgrado, il fumatore, che non si diverte naturalmente di inquinare la sua casa, la sua camera da letto, cioè che esala ancora particelle fini e ultrafini dal fiato dopo aver spento la sigaretta per circa 180 secondi. Si chiama ormai in tutto il mondo, per merito o colpa nostra, secondo dei punti di vista, residual tobacco smoke, oppure fumo di tabacco residuo. Ed è quello che il fumatore bisognerebbe cercare di evitare che facesse in un ambiente chiuso, altrimenti alla fine della serata il luogo pubblico o anche la propria casa risulta inquinata quasi come quanto era inquinata prima quando si fumava dentro. Allora, abbiamo il tempo di sentire Sonia da Brescia. Buongiorno Sonia, perché sì, parla di bambini. Buongiorno. Sonia, buongiorno. Buongiorno, volevo chiedere un'informazione: se i bambini all'aperto, quindi in giardino, in balcone piuttosto che in spiaggia, e ci sono persone che fumano, c'è una legge che li tutela, quindi si può chiedere alla persona fumatrice di allontanarsi anche se è un vicino di casa, oppure no? Dottor Boffi. No, all'aperto in questo momento purtroppo non ci sono delle normative nazionali, ci sono delle regole locali. Faccio un esempio di una grossa spiaggia, perché se lo merita, e Anni tra l'altro collabora con noi anche in termini scientifici, anche l'OMS l'ha premiata, che è la spiaggia di Bibbione, quindi non una spiaggetta, una delle spiagge più grandi d'Italia, che ha fatto un divieto totale sul bagnasciuga e nelle più di metà, diciamo, delle file di ombrelloni, e non ha assolutamente perso clienti, cioè turisti, anche i tedeschi, quindi vanno volentieri a Bibbione, ed è una spiaggia più pulita dove non solo non ci sono i mozziconi, ma non c'è neanche l'aria inquinata dal fumo passivo. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS. E in video su radio24.it e su rds.it. Cuore e denari. Siamo tornati insieme, ancora qualche minuto, insieme al dottor Boffi, responsabile della pneumologia dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Dottor Boffi è sempre con noi? Ribuongiorno. Allora, consigli. Abbiamo parlato di fumo di seconda e aggiungiamo anche quella di terza mano. Ci può dare dei consigli per limitare i danni? Chi vive accanto ad un fumatore, oltre a tenerlo un po' sul balcone, oltre tre minuti da che ha smesso di fumare, che cosa può fare? Beh, sì, il fumo terziario, il fumo di terza mano effettivamente è un problema molto grosso, non si sa neanche ancora bene quanto rimane per tanto tempo dentro, permeato nelle fibre dei divani, tessuti, dei tappeti, delle tende, quindi prima cosa che mi viene da dire è arrivare bene le tante specie dove si è formato. Sai che. E poi anche i bambini, cerca di non farli gattonare per terra, sui tappeti, perché si fanno una sorta di aerosol di fumo di terza mano. Purtroppo sì, anche le macchine, vengono, quelle che vengono vendute usate e che sono i fumatori, leggevo recentemente i dati, proprio le assicuro, perdono molto di prezzo, vengono molto deprezzate, perché non puoi completamente cambiare i tessuti, un po' rimane dentro queste polveri ultra fini permeate nei tessuti che le assorbono. Dottor Boffi, quindi cerca di aiutarlo a smettere, dottor Boffi, e un aiuto per smettere potrebbe darlo la citisina, no? Ne abbiamo parlato la scorsa settimana con la sua collega, acceso l'interesse e la curiosità dei nostri ascoltatori. È un vecchio medicinale, perché la molecola è stata scoperta negli anni 60 ed è stata utilizzata per anni nei paesi dell'est, ma dopo la pubblicazione di numerosi articoli scientifici che ne attestano l'efficacia, i più recenti sono sul New England, insomma, con questa molecola che torna a far parlare di sé, soprattutto perché, essendo un galenico, costa anche meno. Sì, è un prodotto naturale, diciamo, questo è già un fattore positivo, perché molti fumatori non amano farmaci più forti, e quindi questo, perché no, è un valore aggiunto. Poi anche l'aspetto economico, 50 euro invece che 350 non è poco, è vero che le sigarette non è che uno le va a rubare, però insomma comunque sicuramente è un deterrente, un alibi in meno che offriamo ai fumatori. Il fatto che il farmaco per smettere di fumare costi così poco, e comunque insomma quello che mi viene a dire è che questi recenti risultati dimostrano che è sicuramente un farmaco interessante, che comunque, siccome la maggior parte dei fumatori tende, ahimè, a ricadere, no? Viene definito il fumo una dipendenza, una patologia recidivante, più strumenti ci sono a disposizione, e adesso abbiamo anche la citisina da un annetto, lo usiamo ai centri antifumo con regolarità, in alternativa agli altri prodotti che ci sono già da più tempo sul commercio, meglio è, perché così possiamo meglio personalizzare le scelte farmacologiche per quel determinato tipo di paziente, e in questa maniera ottenere maggiori percentuali di cessazione definitiva. Ecco, ricordiamo che si prepara in farmacia su indicazione del medico, quindi dottor Boffi, è una terapia un po' cucita su misura. Sì, allora lo svantaggio è che bisogna prendere tante capsule al giorno, sì, per cui bisogna ricordarselo, ecco, i manager, le persone che hanno 3000 impegni e lavori devono mettere magari molto rosmarino nelle loro stanze, esatto, perché per sembra che il rosmarino migliori la memoria, così ecco, si ricordano di prendere la cetosina. Di mettergli un microchip nel cervello che ogni 3 ore gli scatta un timer e si ricordano di prendere la cetosina. Un po' più il dottor Bobby, allora dottor Boffi, grazie per tutte le domande che non siamo riusciti a cui non siamo riusciti a dare una risposta. Scriveteci perché faremo lavorare il dottor Boffi. Volentieri. Grazie. Buona giornata. Si tiene la barca, la roba de marca, la macchina del lusso, la dinera dell'incasso, la cuenta in Svizzera, la vacanza esotica. E dice sta canzone tu l'hai dichiarata? Sì. È una cacca. Vabbè, insomma, non volevo arrivare proprio al ritornello finale, invece niente. Sentivo, ho detto, ma ho sentito bene. Interromperò prima o poi la canzone, invece, insomma, vabbè, che Cozzalone gli possiamo concedere di tutto. Certo. Allora, la canzone divertente per introdurre il nostro prossimo approfondimento. La precompilata, il PIN dispositivo, l'agenda digitale. Quante volte avete sentito queste espressioni? Non ci possiamo più permettere di vivere senza le dovute credenziali informatiche. Le chiavi digitali che ci danno accesso a tante porte, in particolare della pubblica amministrazione, ma che a volte facciamo fatica ad usare. Da qualche settimana abbiamo una novità in più che potrebbe semplificarci la vita. Cosa è successo dal 15 marzo? È diventato operativo lo SPID, il sistema pubblico di identità digitale. In pratica cittadini e imprese possono chiedere una password che va addirittura a rimpiazzare centinaia di codici già esistenti per entrare via web da subito nei servizi pubblici e in futuro anche in quelli gestiti da privati. Pensate, una password unica per entrare anche nei siti di e-commerce, nei servizi bancari ed assicurativi. Allora, l'accesso che è possibile in questo momento può avvenire con qualsiasi device connesso ad internet, personal computer, smartphone, tablet. Lo so che sto utilizzando tanti termini in inglese, ma ormai sono diventati, entrati nelle abitudini di tutti. La cosa interessante è che il possesso dello SPID è uno dei canali per l'accesso fai da te, per esempio al 730 unico precompilato, ne abbiamo parlato anche all'inizio della trasmissione, per fare l'estratto conto contributivo dell'INPS, che raccomandiamo tanto in attesa che arrivi a tutti la busta arancione. E da ieri c'è anche un'altra novità. Lo SPID consente anche di accedere ai servizi online di Equitalia se vogliamo andare a controllare la nostra situazione debitoria, ma anche se vogliamo pagare cartelle, avvisi per richiedere per esempio una rateizzazione degli arretrati fiscali, per sospendere con una richiesta che possiamo fare attraverso questa modalità la riscossione, fare anche delle eventuali verifiche appunto delle procedure in corso. Allora, è tutto così facile, tutte le amministrazioni possono avere accesso tramite lo SPID. Avete provato voi a chiedere il vostro profilo digitale? Quanto tempo avete impiegato? A cosa vi servirà? Come è andata? Raccontatecelo all'800 24 00 24, ma soprattutto raccontatelo, perché gli interessa molto, ad Antonio Samaritani, che è il direttore dell'Agenzia per l'Italia Digitale, l'AGID. Buongiorno dottor Samaritani. Benvenuto. E benvenuto. Grazie, buongiorno. Buongiorno agli ascoltatori. Allora, senta un po', intanto perché è importante per un cittadino questo servizio? Allora, il servizio, come giustamente diceva lei nell'introduzione, è importante perché sostanzialmente consente al cittadino di sostituire le tante password che ciascuno di noi ha nascosto o nell'agendina o sotto un numero di telefono, eccetera, eccetera. Non mi ricordi il mio vademecum, guardi, perché è un ginepraio nel quale non riesco più ad orientarmi. Esatto, e quindi sostanzialmente con una sola password, che a questo punto non ci si dovrebbe dimenticare, perché è una per tutto e tra l'altro è sicura. È sicura perché a monte prevede un processo di riconoscimento dell'identità. Senta, quante identità digitali avete rilasciato fino a questo momento? Ma guardi, per ora noi siamo partiti il 15 marzo, come lei diceva, e siamo in una fase sostanzialmente sperimentazione un po' più avanti, ecco, un po' più, esatto, che una sperimentazione, ma forse ancora è una sperimentazione. Siamo partiti con una fase molto soft, diciamo, quindi molto lentamente, quindi agganciando servizio per servizio, perché volevamo essere sicuri di non dare disservizi ai cittadini che già chiedevano SPID. Giriamo intorno a 1 miliardo di richieste che vengono evase al giorno, quindi adesso siamo a circa 40.000 identità digitali rilasciate. Dal 29 di aprile è invece stata lanciata ufficialmente, e quindi adesso stanno succedendo diverse cose. Primo, sta aumentando il tasso di adesione dei servizi della pubblica amministrazione, lei citava Equitalia per esempio prima. INPS e anche, ho citato l'Agenzia delle Entrate, sì, ma c'è anche INAIL, esatto, per esempio. C'è anche INAIL, c'è INPS, eccetera, ci sono le prime regioni pilota e dentro giugno avremo 6 nuove regioni, cioè il Piemonte, il Lazio, la Liguria, l'Umbria, le Marche e la Lombardia. Abbiamo comuni, vedi, ci sono anche le Marche, sì, esatto. Ancora Firenze, insomma, quindi abbiamo un piano di sviluppo dei servizi. L'altra cosa importante è che abbiamo di pari passo un piano di sviluppo della capacità così produttiva, diciamo, degli identity provider. Quindi Poste ha incominciato con oltre 3.000 uffici postali sul territorio abilitati a rilasciare SPID e ha un programma entro l'estate di abilitare tutti gli uffici postali. InfoCert sta incominciando anche lei ad abilitare le sedi delle Camere di Commercio e altre sedi presenti sul territorio. Team dovrebbe fare lo stesso, quindi sostanzialmente c'è un piano di dispiegamento anche di una presenza, diciamo, capillare sul territorio. Certo. Che da allora, qui all'estate verrà resa compiuta. Tramite SPID, ho proprio il bilancio ultimissimo della vostra attività, è possibile accedere al momento a 240 servizi, noi abbiamo appunto già anticipato i più rilevanti, l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile online la dichiarazione dei redditi precompilata per quest'anno, l'INAIL, dicevamo, ha reso disponibili tutti i servizi online, per esempio per i servizi riguardanti gli infortuni, la sicurezza sul lavoro, la denuncia di inizio e cessazione attività, l'INPS offre l'accesso a tutti i servizi online rivolti ai cittadini, per esempio appunto l'estratto contro contributivo. Per quello che riguarda invece dottor Samaritani, le pubbliche amministrazioni locali, una regione che offre questo servizio, che informazioni possiamo trovare per esempio accedendo al sito della regione Friuli Venezia Giulia, che è una delle amministrazioni appunto che ha già attivato il sistema pubblico per l'identità digitale? Sì, certo, la Friuli Venezia Giulia sta cominciando, diciamo, con l'aggancio di tutti i servizi al cittadino, quindi ha sostanzialmente tutti quelli che riguardano, diciamo, dal sociosanitario, all'anagrafico professionale, il cambio del medico curante, i dati anagrafici sanitari, la scheda anagrafico professionale, le messe scolastiche, cioè sostanzialmente questi sono i primi, ma anche lì ovviamente è previsto un piano di aggancio successivo di tutti i servizi che oggi ci sono e poi la cosa importante è che si faranno, perché l'altro elemento secondo me rilevante per la pubblica amministrazione della presenza di SPID, che è un incoraggiamento a sviluppare nuovi servizi innovativi verso il cittadino. Una grande sfida, dottor Samaritani. Io intanto ho invitato i nostri ascoltatori naturalmente a raccontarci, certo, se avessero già provato a fare l'attivazione del proprio profilo digitale. E no, avevamo un ascoltatore che invece c'è caduto. Adesso vediamo se riusciamo a ripristinarlo. Le vorrei anticipare quello che voleva raccontarci, che aveva provato, ma per accedere bisogna avere la carta d'identità digitale o la tessera sanitaria, mi sbaglio? Allora ci faccia un po' più, se ce la facciamo, in un minuto, dottor Samaritani. Allora io da oggi non ho mai fatto nulla, il PIN dispositivo che mi permette appunto di accedere al sito dell'INPS, non faccio la precompilata per cui non ho attivato il servizio con l'Agenzia delle Entrate, l'INAIL non mi è servito, ma come faccio a profilarmi dal punto di vista digitale attraverso SPID? Allora, prima di tutto appunto bisogna richiedere l'identità digitale SPID. Come si fa a richiedere l'identità digitale SPID? Si va su uno dei siti degli identity provider e sostanzialmente si seguono, diciamo, le istruzioni che prevedono oggi di avere in qualche modo, come lei diceva, una profilazione digitale, cioè chi ha una carta sanitaria e il PIN della carta sanitaria, chi ha una firma digitale o chi ha un altro strumento tipo una firma elettronica, accede e converte senza nessun problema la propria identità digitale. Chi non ha niente di tutto questo deve fare una procedura che consenta l'acquisizione del documento fisico, quindi una carta d'identità. E quindi può fare due cose, può andare fisicamente in uno dei punti che menzionavo prima, e quindi oggi abbiamo Poste, nel giro di breve tempo avremo InfoCert. Anche con i punti fisici, e quindi sostanzialmente seguire una procedura fisica, oppure può seguire una procedura anche lì. Dottor Samaritani, non stavo pensando, vogliamo digitalizzare tutto, ma poi comunque una presenza fisica per avviare la procedura un po' ci serve ancora. La metafora è il passaporto per entrare in internet, e quindi nello stesso in modo sicuro, quindi nello stesso modo e con cui andiamo al commissariato a farci rilasciare il passaporto, dobbiamo andare. Purtroppo deve andare. Consideri che con SPID lei farà una serie di cose per l'Italia rivoluzionaria, per esempio aprire un conto corrente online. Allora è chiaro che ci vuole a monte un percorso anche di sicurezza, però consideriamo una cosa, è fatto una sola volta nella vita. Certo. Non si può poi perdere appunto questo profilo digitale. Avevo promesso a Carlo di sentirlo, l'abbiamo recuperato. Carlo, ha sentito la spiegazione che le ha dato il dottor Samaritani sul fatto che lei non riusciva perché non aveva la carta d'identità digitale o la tessera sanitaria? Sì, ho sentito, una risposta che mi sembra abbastanza insoddisfacente. Perché, perché innanzitutto volendosi legare anche di persona, al momento c'è solo il sito delle poste. Sì. Quindi prima di propagandare tanto questi sistemi, mettessero i cittadini in condizioni di ottenerli con un minimo di facilità. Però Arrigo ci scrive da Verona che lui l'ha attivato tramite poste, veloce, semplice, tutto certo. Fatto. Carlo da Roma voleva fare tutto online e non vuole recarsi presso nessun interlocutore fisico, dottor Samaritani. Beh, insomma, abbiamo già detto che siamo in una fase ancora che possiamo considerare di totale sperimentazione dell'avvio di questa novità, guarda, rivoluzione digitale italiana. Io capisco Carlo e capisco quindi anche il senso di protesta, che ci fa anche piacere da un certo punto di vista, perché vuol dire che c'è un'aspettativa importante. Infatti, allora, ha visto come vedere il bicchiere mezzo pieno. Esatto, vuol dire che siamo sulla strada anche corretta di soddisfazione, di soddisfacimento di bisogno importante del cittadino. Però torno al fatto che stiamo, dunque, paesi come l'Inghilterra sono in sperimentazione da 2 anni. Noi in 1 mese e mezzo siamo arrivati comunque a 40.000 identità rilasciate e avremo il dispiegamento di tutto quello che chiede Carlo entro la fine dell'estate. Benissimo. Perché Poste avrà i 14.000 uffici postali, perché InfoCert avrà 1.000 punti sul territorio, perché TIM partirà con le proprie sedi commerciali e poi avremo anche altri identity provider che stiamo accreditando, e quindi ulteriormente si accrescerà la capacità di risposta al cittadino. Dottor Samaritani, allora lei ha già virtualmente preso un appuntamento con noi, quello dopo l'estate, alla ripresa di Cuore e Denari, ci racconterà un po' questi mesi come sono passati, magari qualcuno coglierà l'occasione delle ferie per studiare bene il procedimento, per profilarsi dal punto di vista digitale attraverso SPID e verificare quali sono tutti i servizi che può attivare attraverso appunto la propria identità digitale. Intanto in bocca al lupo per tutto. Con grande piacere, ci sentiamo a settembre. Mi fa fare solo un flash pubblicitario. Non esageri però, perché non vorrei che la System qua, che la nostra concessionaria, si non mi vorrà dire che sono partiti gli spot sulla Rai, perché 15 secondi per dire che proprio perché il feedback dei cittadini ci interessa, abbiamo anche aperto un gruppo su Facebook. Aderiamo, guardi, vado a vedere anch'io. Per aggiornarci ci fa grande piacere, perché proprio questo è il momento in cui stiamo tarando il servizio. Guardi, tutto ciò che è filo diretto con le persone a noi interessa moltissimo, e per cui volentieri le concediamo appunto di raccontare che siete partiti anche su Facebook per la raccolta di tutte le istanze delle persone. Grazie dottor Samaritani, grazie, buon lavoro. Grazie, buona giornata. Vedi? Iniziano. Lavori in corso. Lavori in corso, infatti. Allora, anche noi abbiamo dei lavori in corso, abbiamo tante cose da dire e da fare. Da che cosa vogliamo partire? Dai mercati, dalla giornata della mano, perché oggi parleremo tra pochi giorni. Ma lanciamola dai la giornata. Allora, noi non stiamo mai con le mani in mano, per cui dimostriamo attivamente che lavoriamo così proprio. Via. La catena di montaggio qua. Allora, mani, tra poco si celebrerà una giornata dedicata proprio alle nostre mani, ma noi vogliamo fare le cose per bene. Che dove ti cade l'occhio quando tu vedi le mani di una persona che ti sta davanti? Guarda, le tue sono belle, guardo la mia perché ho l'indice della mano destra che ha questa unghia difettosa, e infatti il tuo ospite di stamattina mi aveva fatto anche la diagnosi sul problemino che ho, e non solo non mi cresce soddisfacentemente, ma mi si rompe continuamente e mi scoccia proprio questa situazione. Allora, di che cosa vogliamo parlare? Parliamo di unghie, tutte le informazioni necessarie per prenderci cura di questi poveri annessi cutanei, che sono cugini alla lontana dei nostri capelli, che negli ultimi tempi se la stanno vedendo brutta perché laccate, colorate, intarsiate, ricostruite. Da quando il loro aspetto è diventato un must, le unghie sembrano ammalarsi più facilmente, colpa del fai da te, di manicure troppo aggressive e dell'uso spesso indiscriminato indiscriminato di prodotti che sono, diciamo così, poco rispettosi del loro benessere. Non se la passano certo meglio quelle dei piedi, che sono spesso costrette ad adattarsi, a passare molte ore al giorno in scarpe con punte o piante troppo strette, e non potendo ribellarsi, cosa fanno? Cambiano a volte forma e anche consistenza. Di tutto questo parliamo oggi insieme al nostro esperto, il professor Antonino Di Pietro, direttore dell'Istituto Dermoclinico Vitacutis, gruppo ospedaliero San Donato, che è tornato a trovarci. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. E che si prenderà cura anche delle unghie, dell'unghia di Deborah. Eh sì, ma l'ha già vista. Allora, professore, intanto a proposito di unghie e di unghie. Sì. Adesso noi guardiamo le nostre unghie, iniziamo quelle dalle mani, poi se abbiamo tempo ci togliamo un attimo le scarpe e andiamo giù, magari approfittiamo dei mercati. Allora, Deborah ci dice: ho un'unghia che mi dà un problema. Che cosa, ecco, un conto è un problema che si manifesta solo in un'unghia, un altro paio di maniche è quando invece altro paio di guanti, bravo, il problema si manifesta in tutte le unghie, sì, o in due o tre unghie della stessa mano. Questo ci dà già delle indicazioni, e quindi ai nostri ascoltatori possiamo dire: guardate le unghie, osservatele e contate quante della mano destra, della mano sinistra hanno dei problemi. Sì, certo, perché se è una sola, o al massimo due, insomma, le unghie ammalate, possiamo pensare a qualcosa dall'esterno che ha colpito l'unghia e quindi ha causato il problema. Ma se sono numerose le unghie, allora bisogna pensare a qualche patologia interna, a qualche problema legato alla circolazione o alla respirazione. Ci sono malattie polmonari che possono dare anomalie delle unghie, ci sono delle forme di indebolimento dell'organismo, l'anemia ad esempio. Ecco, l'anemia dà delle alterazioni sulle unghie, diventano fragili, pallide, si spezzano con facilità, e quindi bisogna sospettare. Allora, le osserviamo, sono un po' la cartina tornasole, certo, della nostra salute e del nostro benessere. Io direi: forma, colore, consistenza, tenete a mente queste tre parole, osservate le unghie, però sentite anche le informazioni sui mercati, che hanno, come hanno, sono un po' aggressivi, sono un po' graffianti, un vedi? Po' aggressivi, sì. E poi ritornate insieme a noi, insieme al professor Antonino Di Pietro, per ricevere consigli e indicazioni. A tra poco. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Vi presenta Cuore e Denari. Voglio vivere a colori, colori. Sfoderate le unghie, questo è il loro momento. Ricordate le tre parole chiave: forma, colore, consistenza. Tre parole per guidarvi nell'osservazione delle vostre unghie. Perché ne parliamo? Perché l'abbiamo preso un po' dalla lontana. Sabato sarà la quarta giornata nazionale per la salute della mano, tra l'altro un organo a tutti gli effetti che ha proprio dei medici dedicati, ne parleremo. A noi abbiamo pensato di giocare un po' in anticipo e di iniziare ad osservarle a partire dalle unghie. Perché? Perché le unghie raccontano molto della nostra salute, come ci ha anticipato il nostro ospite che abbiamo in linea, il professor Antonino Di Pietro. Professore, eccoci qua. Allora, indicazioni, suggerimenti, avvertenze per raccogliere le informazioni importanti che ci mandano le nostre unghie. Professore, iniziamo dalla lamina. Dovrebbe essere liscia, ma spesso la lamina ungueale ha degli avvallamenti, delle striature. Certo, dagli allenamenti, delle striature, che nella maggior parte dei casi dipendono da delle forme di manicure troppo aggressive, cioè la voglia di avere delle unghie belle, perfette, alla fine ce le fa ammalare. Soprattutto l'abitudine malsana, direi, di eliminare a tutti i costi quella pellicina che c'è alla base delle unghie, cioè tra la pelle e l'unghia mentre si sta formando. Quella non deve essere mai tagliata. Quella non deve essere mai tagliata, non deve essere mai eliminata a tutti i costi, perché è un po' come lo stucco che c'è intorno ai vetri delle nostre finestre. È importante per non far penetrare all'interno della matrice ungueale, dove l'unghia è viva, dove cresce, dove nasce, dei germi che possono far ammalare l'unghia. Ma non solo, quando con la punta delle forbici o degli oggetti appuntiti si cerca di pulire tutta quella parte, si possono rompere le cellule che danno vita all'unghia, fanno nascere, e l'unghia cresce alterata, con delle striature, possono essere sopraelevate oppure anche degli spacchi dell'unghia, che rendono questa estremamente fragile. Attenzione anche a non indossare, soprattutto per i piedi, delle scarpe molto strette, appuntite, perché lo schiacciamento delle dita ai lati porta ad alterazione dell'unghia. Le unghie che crescono a cupola o a botte, quindi si alzano al centro, si deformano e con delle alterazioni che possono essere permanenti. Come anche certe abitudini di vita, le mani mantenute sempre a lungo nell'acqua, soprattutto per certi tipi di lavoro, chi lavora nei bar o nelle lavanderie, chi ha le mani, chi impasta il pane, anche se adesso è sempre più raro, ma mantenere le mani all'umidità per molto tempo può portare a delle alterazioni. Certo. Come anche chi ha l'hobby dell'acquario. Ecco, questa è una dobbiamo dire ai nostri ascoltatori di fare particolare attenzione. L'acquario può sì, è una curiosità, è una curiosità, sì, ma che sta aumentando. Noi dermatologi vediamo sempre più spesso, perché così è di gran moda adesso avere l'acquario anche a casa, ma negli acquari, un po' per i coralli, soprattutto se sono acquari marini, o per alcuni pesci che vivono in questi acquari, possono essere portatori di micobatteri, sono dei microorganismi che possono penetrare nella pelle delle dita, soprattutto se ci sono dei piccoli graffi, delle abrasioni, se sono vicino l'unghia fanno nascere dei granulomi che alterano l'unghia, quindi sono dei rigonfiamenti, a volte pieni anche di pus, che possono alterare la matrice dell'unghia e quindi l'unghia si deforma. Cresce. Quindi attenzione ai pesciolini, lavatevi accuratamente le mani dopo averle immerse nell'acquario. Non immergere le mani nell'acquario se ci sono delle piccole abrasioni o ci sono dei graffi. Professore, andiamo al colore, anche le variazioni di colore sono un dettaglio importante, le dita e le unghie soprattutto dei fumatori ingialliscono, ad esempio abbiamo parlato di fumo nella prima parte della trasmissione, questo è un segnale che tutti noi possiamo cogliere e interpretare, ma lei come dermatologo può farci capire quali sono le altre variazioni di colore e a che cosa corrispondono? Le unghie possono essere pallide, no? In questo caso vuol dire che arriva sangue poco ossigenato, con poco ferro, allora questo può essere la spia di un'anemia. Quindi se vediamo delle unghie fragili, un po' incavate e pallide, diventano bianche, questo deve far scattare l'allarme e farci fare degli accertamenti per verificare che non ci sia un'anemia. Se ci sono delle malattie polmonari o cardiache, le unghie possono diventare scure, bluastre. O in alcuni punti le unghie possono macchiarsi. Un tempo si diceva che le macchioline bianche erano le bugie, no? Ai bambini si diceva, hai detto le bugie, guarda che ti, no, hai le unghiette il macchiate. Il naso non va più bene, in realtà, il naso lungo. In realtà non sono bugie, ma queste macchioline bianche che punteggiano a volte la lamina ungueale. Io ricordo che da piccolo nascondevo sempre le mani, perché le bugie diceva parecchie. Vedi perché ha fatto dermatologo. Diventando dermatologo, che invece quelle macchioline bianche sono dei piccoli traumi causate o da manicure ancora eccessive, oppure perché si ha l'abitudine di mordicchiare le unghie, oppure un piccolo trauma, io sbatto con la mano contro qualche oggetto, un mobile, quello che è, nelle settimane successive mi compaiono queste macchioline bianche che poi pian piano vanno avanti col crescere dell'unghia per sparire. Ecco, quelle piccole macchie non sono le bugie, ma sono dei piccoli traumi sull'unghia, mentre invece le macchie scure, marroni, molto intenso, diventa proprio marrone, anche molto scuro sul nerastro, o verdastre, possono essere la spia di una micosi dell'unghia, cioè di una infezione. Ecco, ci racconta come fare una sorta di autodiagnosi tutte le volte, soprattutto per le unghie dei piedi, quando vediamo che le unghie sono brutte, cambiano colore o cambiano forma, si pensa subito, magari soprattutto per le persone che frequentano le piscine o la palestra, ai funghi, a una micosi, e spontaneamente ci si reca in farmacia e si prende un prodotto. Ci dice che cosa fare, se questo è una buona cosa, oppure sarebbe magari meglio attendere per evitare di mettere sull'unghia dei prodotti che non solo magari non servono a nulla, ma possono anche in qualche modo danneggiarle, quindi spendiamo soldi per non avere nessun effetto. Sì. Diciamo che l'uso di un farmaco deve essere sempre motivato e deve essere sempre indirizzato. Mettere dei farmaci, in questo caso farmaci che curano l'unghia, ma se la malattia dell'unghia non c'è, diventa oltre che dispendioso e inutile, ma anche può causare delle assuefazioni a quel farmaco, e il giorno che davvero abbiamo la micosi, poi dopo non riusciamo più a guarire. Professore, quindi, in un minuto, lei mi sa dire cosa dobbiamo fare guardare? Fare l'esame dell'unghia, rivolgersi al dermatologo e fare l'esame dell'unghia, che è semplicissimo: si gratta un po' quella polverina che c'è sotto l'unghia, si guarda subito al microscopio e il dermatologo all'istante dice c'è un fungo o non c'è un fungo. Appurato che c'è il fungo, si fa la cura, altrimenti vuol dire che la causa non è il fungo ma è un trauma, la scarpa troppo stretta, un urto che abbiamo fatto col piede ha causato poi quella macchia lì perché si è rotto un capillare. Quindi l'esame dell'unghia dal dermatologo è importante. Noi all'Istituto Dermoclinico a Milano negli ultimi 3 anni abbiamo visto un aumento del 70% delle richieste di malattie delle unghie. Quindi e avevamo fatto, aumento. Ti ricordi, Deborah, sì, con il professor Di Pietro, proprio una giornata tutta dedicata alle unghie. Magari ripeteremo questa esperienza e che ha avuto un grande successo. Un sacco di amici di cuore e denari. Professor Di Pietro, grazie. Quindi se le vostre unghie vi danno problemi, mi raccomando, non improvvisatevi, fatevi fare un esame, soprattutto per evitare di mettere dei prodotti che non servirebbero a nulla, anzi alla lunga le danneggerebbero. Un esame riesce a farci capire se la nostra unghia è diventata sede di, è diventata aggredita, è stata aggredita da funghi. Bastano pochi minuti per la salute delle unghie. Grazie professor Di Pietro, alla prossima. Buona giornata. A presto. Dobbiamo andare adesso al traffico. Sì, subito veloce. Pronti. Cuore e denari. Parla gentilmente e portati un grosso bastone. Andrai lontano. Theodore Roosevelt. Hai capito i presidenti americani come suggeriscono di presentarsi in banca? Lo facevano in tempi non sospetti, non certo con le varie situazioni che si manifestano nei tempi moderni. E allora era uno scambio epistolare quello in cui era contenuta questa frase di Roosevelt con un suo amico avvocato. Allora, una frase che troviamo, quella che vi abbiamo appena recitato, sulla quarta di copertina dell'11° numero dei Tuoi Soldi, il manuale di educazione finanziaria del Sole 24 Ore, che è in edicola oggi, che ha un titolo che parla chiaro: come difendere i propri diritti. E qua subito la mente ci va, ma graffiando esatto, con le unghie, con i denti. Ci va intanto, per esempio, a quei risparmiatori vittime del salvabanche di novembre, di cui abbiamo parlato a lungo ieri, sempre con un altro collega del Sole 24 Ore, oltre a quello che vi vado a presentare tra poco. Abbiamo parlato di chi riceverà questo rimborso automatico di circa l'80% del valore dell'investimento iniziale. Abbiamo anche parlato della procedura arbitrale che si potrà attivare con l'ANAC, l'autorità anticorruzione, per coloro che invece non avranno il rimborso automatico. È peraltro questa la possibilità di aderire alla procedura dell'ANAC, una nuova procedura per risolvere una controversia finanziaria. In realtà di procedure per risolvere contenziosi con la banca o con un soggetto finanziario ce ne sono molte in Italia, di possibilità appunto alternative alla giustizia ordinaria per provare a risolvere un contenzioso non solo con la banca ma per esempio anche con l'assicurazione o con l'azienda del gas o comunque con un soggetto prestatore di servizi per i consumatori. Noi oggi vogliamo fare una rapida carrellata dei tavoli a cui è possibile sedersi per provare a risolvere qualche grana, e sono tutti i tavoli indicati appunto nella guida di oggi, che è stata scritta praticamente al 90% da Antonio Criscione di Plus 24 del Sole. Antonio, ciao, benvenuto. Buongiorno. E tra l'altro ho avuto anche la consulenza di un docente, se non ricordo male, della Cattolica di Milano, Cattolica, professor sì. Dolmetta, esatto, quindi esperto di diritto privato, esperto anche di questi argomenti. Allora, tra l'altro, oltretutto mi viene anche in mente di recitare di nuovo il pezzo che ho segnalato già prima di Moria Longo del Sole 24 Ore, dove si fa il punto invece dei 120.000 azionisti della Pop Vicenza, che a questo punto anche quei pochi che avevano aderito all'aumento di capitale con l'obiettivo di andare in borsa e tentare un po' di recuperare tutto quello che hanno perso come azionisti della fase precedente della banca, non possono più neanche fare questo. In realtà, secondo te, una delle strade di cui parli per la gestione dei contenziosi finanziari appunto in questa guida, questi risparmiatori la potranno seguire? Perché ti dico già che qualche associazione dei consumatori lo suggerisce. Beh, sicuramente quello sempre, cioè nel senso che ogni volta che si crea una situazione di crisi, di controversia tra un risparmiatore e un istituto finanziario, un intermediario finanziario, c'è la possibilità di ricorrere ad un tavolo, diciamo, per comporre la lite prima di andare dal giudice eventualmente. Bisogna dire che in Italia per i contratti bancari, finanziari e assicurativi questo tentativo è obbligatorio prima di andare dal giudice, quindi anche per potersi rivolgere al giudice bisogna sempre tentare di fare questa mediazione o conciliazione. Nel settore bancario e finanziario esistono delle istituzioni proprie che erano precedenti alla legge sulla mediazione e che la legge sulla mediazione ha lasciato in vita, come dire, anche in ragione della loro particolare, particolare specializzazione. Poi lì bisogna vedere a seconda delle materie di se si tratta di un servizio di investimento, certo, oppure se c'è un contenzioso che riguarda bancario, il conto corrente si va da una parte, se riguarda invece il tema investimento si va da un'altra parte, cioè, Antonio? Esatto, per esempio il più gettonato attualmente in materia di conto corrente o di questioni bancarie è l'arbitro bancario finanziario istituito dalla Banca d'Italia. È un ente che ha visto crescere nel tempo le richieste da parte dei cittadini di risolvere liti anche importanti, voglio dire, ma anche la cosa importante anche piccole, cioè nel senso che una delle espressioni che si usa a proposito dell'arbitro è che ha garantito la giustiziabilità di casi minori, casi per i quali magari anche di 100-200 euro, per i quali dal giudice non saresti arrivato mai, e che grazie all'esistenza di questo istituto invece adesso trovano Insomma, sono cambiate molte cose negli ultimi anni, perché veramente fino solo a pochi anni fa per risolvere anche questi conflitti, questi contenziosi, l'unica strada era andare in tribunale, invece adesso ci sono tante alternative possibili. C'è una specifica da fare, perché tu su questo punto introduci molto bene la guida. La conciliazione non è lo stesso concetto della mediazione, si arriva a conciliazione dopo aver mediato, no? Esatto, in realtà adesso viene chiamato soprattutto poi che si occupa di questo argomento la media conciliazione, cioè nel senso che c'è il tentativo di mediazione, se la mediazione riesce si arriva ad una conciliazione. La cosa importante di una conciliazione è che una volta che le parti trovano un accordo, e quindi sarebbe strano il contrario dopo, certo, però una volta che le parti trovano un accordo è un titolo esecutivo, per cui una volta che la banca ha aderito deve rispettare, vale come un contratto tra le parti, certo. Quindi, senti, tu ci dicevi prima appunto che in Italia per contenziosi che riguardano i contratti bancari, assicurativi, finanziari il tentativo preventivo di conciliazione è obbligatorio prima di andare da giudice, no? Ma lo sanno tutti i consumatori? Ecco, il ricorso all'arbitro bancario è cresciuto molto negli ultimi anni, ma in maniera soddisfacente, e soprattutto quali sono le situazioni più diffuse che vengono denunciate in quella sede? Ma attualmente c'è stato negli ultimi due anni un exploit particolare di una questione molto, molto antipatica, secondo me, che è quella della cessione del quinto dello stipendio. L'anno scorso sull'intero contenzioso dell'arbitro era il 32% del contenzioso. Rispetto al 2015, i dati non sono ancora usciti, li abbiamo anticipati noi su Plus e anche sulla guida, hanno raggiunto il 54%, cioè più della metà dei casi di chi si rivolge all'arbitro bancario finanziario nell'ultimo anno è stato per questioni legate alla cessione del quinto dello stipendio. I consumatori sono adeguatamente informati sull'esistenza di questa figura. Dove lo troviamo quest'arbitro bancario? Le statistiche di accesso al sito dell'arbitro in realtà sono molto alte, quindi questo mostra che tutto sommato risparmiatori cominciano a fare i conti con questa figura, e anche il crescere dei ricorsi mostra che c'è anche una fiducia, tutto più consapevolezza sommato, certo, in questa cosa, cioè si è passato dai 3.000 e poco più del primo anno dei ricorsi, cioè a più di 13.000 dell'anno scorso, quindi voglio dire, in questo nel giro di 4-5 anni. Dove lo troviamo, Antonio? A chi ci possiamo rivolgere se dovessimo aver bisogno? Speriamo di no, ma invece quanto pare c'è un crescente bisogno, purtroppo. Allora, per l'arbitro si può guardare o il sito della Banca d'Italia oppure il sito arbitrobancariofinanziario.it. Fra poco però bisogna dire che in materia di investimenti ci sarà anche un nuovo arbitro, che è quello lì della Consob, che si chiamerà, anche questo è un po' un'anticipazione della guida, si chiamerà arbitro per le controversie finanziarie. E la cosa importante rispetto alla mediazione dell'arbitro, e anche di questo nuovo arbitro che sorgerà, è che le controparti sono obbligate ad aderire al tentativo, perché per esempio un grosso problema della mediazione è che le controparti non sono obbligate, e quindi capita che per la materia bancaria solo il 44% dei casi in cui il risparmiatore cerca di fare una mediazione la controparte si siede al tavolo. Allora, le cose da raccontare sarebbero molte altre, però noi invitiamo gli ascoltatori naturalmente a leggere la guida. Prevedo veramente grande attivismo per questo nuovo arbitro che nascerà presso la Consob alla luce delle ultime controversie finanziarie italiane che stanno crescendo appunto a macchia d'olio. Allora, grazie ad Antonio Criscione per essere stato con noi, che gli ascoltatori avevano molto bisogno delle sue informazioni, ma lui ha bisogno di te con questa allergia con cui si è presentato, Nicoletta. Infatti, ce lo dobbiamo coccolare un po', poveri. Me lo aspettavo, adesso mi occuperò di te. Noi intanto torniamo domani, buona giornata a tutti.